Le misure sono senz'altro giuste perché ci troviamo di fronte a un'emergenza, per cui c'era bisogno di dare un segnale con le possibilità che si hanno appunto in questa legge di bilancio e con spostamenti di bilancio di ridurre l'impatto, anche perché stiamo parlando di aumenti che tra elettricità e riscaldamento rischiano di arrivare a 800.000 euro a famiglie in alcuni casi, per cui è una cosa molto rilevante. Ovviamente il problema è più grande ed è strutturale e quindi c'è bisogno che il governo faccia anche altro di molto più ambizioso. Lei nel suo intervento parla di povertà energetica, che è una, come dire, una questione concreta, non è solo teorica. Sì, anche perché il tema di questo rincaro è generale perché riguarda le famiglie e le imprese, ma poi riguarda in particolare alcune imprese che sono quelle che utilizzano di più il gas e hanno grandi consumi di elettricità, e poi le famiglie che già oggi fanno fatica a pagare la rata del riscaldamento della casa e della bolletta elettrica. Oramai c'è questa definizione di povertà energetica, cioè delle famiglie che non riescono proprio a permettersi. Il problema è che in Italia non solo sono cresciute in questi anni, ma con l'aumento della povertà avvenuto durante la pandemia e la disoccupazione che ancora interessa aree del paese, tante periferie delle grandi città, il rischio è che con questo aumento altre famiglie finiscano in condizioni di povertà energetica, cioè il primo taglio che faranno è quello del riscaldamento o della riduzione dei consumi elettrici per appunto per riscaldare magari le stanze dei bambini, l'utilizzo appunto di apparecchi che invece sono necessari. Allora ci vuole una politica di attenzione ai poveri, a chi oggi è in queste condizioni, e di sicuro quanto fatto in questi anni con il bonus elettricità, il bonus gas, il bonus acqua è un piccolo passo, ma è davvero molto poco, è una frazione rispetto al costo dell'aumento che ci sarà durante quest'anno. Il Premier Draghi ha promesso entro la fine di questo mese un nuovo decreto, il ministro Cingolani ha avanzato 10 proposte. Legambiente già sul finire del 2021 aveva criticato una di queste ipotesi, cioè l'incremento della produzione del gas come soluzione. Ma l'incremento della produzione del gas è una soluzione assolutamente parziale e probabilmente anche inefficace, anche perché le riserve di gas stimate in Italia sono pari al consumo di un anno, per cui potremmo in qualche modo per un anno o qualche mese risolvere un po' i problemi. Noi non siamo neanche sicuri che lo pagheremo di meno questo gas, perché il gas poi appunto ha un prezzo che è fatto sul mercato internazionale, quindi poi rischiamo di pagare la stessa a carissima cifra che oggi paghiamo dall'estero. Ma il problema del nostro paese è che noi dobbiamo ridurre i consumi di gas. Come il gas lo importiamo, quello che dobbiamo riuscire a fare noi è aumentare la produzione interna da rinnovabili e poi ridurre i consumi energetici. Sono tutte cose che si possono fare, che oggi sono convenienti e che permetterebbero per esempio alle famiglie più povere di ridurre moltissimo la spesa fino quasi ad azzerarla. Oramai si può ristrutturare le abitazioni per portarle a una classe A o addirittura a consumi quasi pari a zero con interventi che possono essere finanziati con il 110%. Si può realizzare interventi di autoproduzione e anche comunità energetiche che permettono alle famiglie di autoprodursi l'energia elettrica di cui hanno bisogno per la restante parte. Il problema è che nel nostro paese queste politiche ci sono, ma poi non sono indirizzate a chi ne ha più bisogno, per cui il 110% andrà avanti ancora per qualche tempo, le comunità energetiche si potranno fare, ma il rischio è che poi appunto lo fanno le famiglie che appunto avranno un beneficio, ma non sono quelle che invece su cui invece bisognerebbe puntare proprio per aiutarle, perché sono in maggiori difficoltà economiche. Cioè una politica energetica e sociale, se vogliamo riuscire ad accelerare la transizione energetica e a renderla anche giusta. Quindi insomma la soluzione passa da un lato per l'efficientamento energetico, dall'altro per la produzione di energia da altre fonti. Sì, e le due cose se vengono portate avanti insieme sono davvero, diciamo, l'uovo di Colombo, perché uno può realizzare in un condominio una riqualificazione di tutto l'edificio, appunto raggiungendo la classe A e quindi con una riduzione anche del 60-70% dei consumi energetici, e poi quello che manca magari trasformare tutto a pompe di calore, autoprodurlo dal solare per quanto è possibile sul tetto, diventando a far parte di una comunità energetica che oggi appunto è una possibilità grazie alle direttive europee, e quindi riducendo moltissimo anche quello che rimane della bolletta. Sono tutte cose fattibili, il problema è che il nostro paese deve decidere di scommettere qui, di creare delle politiche nazionali e nei comuni che accompagnino questi processi laddove è più urgente, e la deve anche smettere di parlare invece di perdere tempo con il nucleare, con l'estrazione di gas, che sono solo, diciamo, in qualche modo armi di distrazione rispetto a quelle che sono le vere priorità.